inarrabbiabile. Così vuoi, così credo farò, ma il crollo è inevitabile. Tutti pieni, tutti salvi, senza responsabilità. Vecchio accampamento, armai gorilla con soldi. Il faraone sposta un po' l'accento, ma il suo cervello è sepolto. Col biglietto speciale, ma il viaggio è già finito da un po'. E ho tanta tanta voglia di credere che il vostro è il cittadino normale. Il faraone del vecchio accampamento, arma e gorilla coi soldi già. Il faraone gioca con l'accento, ma il suo cervello che dorme qua. Solo offerte modeste. Quello che chiami dialogo è un delirio allo specchio. E dalle tue vetrine vedo pesci in gelatina. Che si fa in tira baraia? Sento del mondo morto.